Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo decimo. Sono arrivato quasi alla fine del mio dire, senza fare alcun accenno ad un'organizzazione qualsiasi che riunisca in un solo fascio e disciplini tutte le forze della mafia, o meglio delle cosche mafiose. Non ne ho parlato per la semplice ragione che una tale organizzazione non esiste. Ogni cosca agisce per conto suo, né riconosce ordinariamente la superiorità di alcun capo che sia di fuori al di sopra di essa. Fra le cosche che operano in siti vicini ci possono essere, ci sono, rapporti di amicizia o di inimicizia, come ho già accennato. Esse si rispettano o si combattono e qualche volta si sterminano a vicenda. Ma questa libertà che hanno è appunto una conseguenza della mancanza di un legame federale che ordinariamente le unisca e possa imporre la loro una norma comune. I membri di due cosche lontana l'una dall'altra, per esempio di due province diverse, spessissimo neppure si conoscono di nome di persone, raramente hanno dei rapporti fra di loro. È superfluo, dopo di ciò, dire che in Sicilia non esiste alcun consiglio generale, alcun duce supremo di tutta la mafia. Quindi l'espressione spesso usata, il tale è un capo della mafia, significa soltanto che egli è in buoni rapporti con parecchie cosche di mafia, le quali protegge assiduamente per averne l'appoggio nelle elezioni o anche per altri fini meno confessabili. E neanche esistono fra i mafiosi parole d'ordine o segni misteriosi di riconoscimento, ed aggiungo che essi non ne sentono il bisogno. Le persone fortemente imbevute di spirito di mafia, e molto più di quelle che appartengono alle varie cosche, si riconoscono facilmente fra di loro per quello stampo, quel non so che di comune che la medesimezza delle abitudini, dell'educazione morale ed eventuale imprimono nei diversi ceti e nelle diverse professioni. Come l'ufficiale che viaggia in borghese, il commesso viaggiatore, l'impiegato, l'elegante viveur, in un vagone ferroviario, in un battello a vapore, ravvisa subito il suo congenere, così fa il mafioso che va fuori del suo comune natio. Naturalmente, trattandosi di mafiosi, questo riconoscimento ha per conseguenza che, se capita l'occasione, essi sanno perfettamente, senza bisogno di alcuna intesa speciale, parlare ed agire in identico modo.